Negare. Negare, secondo Negare. Negare. Se voglio dire, se vuole, vuole, vuole. Secondo te chi è? Perché eri tu, Julius? Io? No, uno lo era. E poi avevo... dovevo sgracchiare, avevo la voce. Egare. Ciao Giulio, qua era acceso, non stavo facendo roba in casa, non è entrato nessuno. E poi c'ho caldo, ho detto tra noi, sono a torso nudo, non so come stare. C'ho il ventilatore a soffitto e non so come stare. E questo è niente, aspetta a luglio e agosto. Allora tu vedi che tu soffri il caldo, perché io non ho niente acceso, nessun raffreddamento, niente, eppure sto bene, non c'è questo caldo. Sì, infatti sono io che lo soffro. Cioè di solito chi è ipertiroideo soffre il caldo, io sono ipotiroideo, tendente. E invece il contrario, non dovrei soffrirlo, lo soffro. Vabbè, io sono tutto il contrario di tutto, quindi lasciamo perdere. Oh, io Giulio, sto per mangiare, pensa, sto per pranzare alle... sono quasi 7.25, cioè, sempre peggio. Poi non sto andando al mare, perché io come vedo un po' di venticello, per quanto bella faccia la giornata, mi blocca, perché il venticello qua vuol dire vento fresco in riva, e non mi piace così. Ci deve essere l'aria ferma, in modo che ti invoglia a fare il bagno anche. Lo so, no, io non ci vado assolutamente. Preferisco starmene a casa, oppure fanno quattro passi. Preferisco, ormai va bene, per me va bene solo la sera tardi, quando c'è fresco, ma durante la giornata non ci penso proprio, guarda. Poi novità, io ieri non ho acceso, non mi ricordo se sono entrato due giorni fa, praticamente sono stato tutta la sera in radio fino a tardi, quando troppo, quando niente. E poi vabbè, così, commissioni sempre, commissioni, la spesa, tutto così, sempre, va bene, già mi rifaccio dopo. Io lo credo, d'altronde bisogna fare, cosa lo faccio anch'io, soprattutto quando c'è da comprare l'acqua, me ne lave, che le confezioni sono un po' pesantucce, allora le vado io, carico la macchina e ciccia, se no le donne come fanno, troppo pesante per loro, poi tanto non ho niente da fare, per cui almeno se non altro mi muovo, faccio qualcosina anch'io, do una mano là. Sento segnale sotto, segnali, ma una moltitudine, ma credo che siamo in FM. Però di mio non sto facendo, vabbè, Sassari già lo sai che è un po' così, no? Non è molto attrattive, oppure quelle che ci sono, per esempio il teatro civico, non mi piacciono quelle cose lì. Da ex rocchettaro mi piaceva musica un po', è un po' più pepata, capito? Però d'altro canto mi piaceva anche la musica classica, vedi? Una cosa strana. Adesso vabbè, ascolto di tutto, però non è che vado ai concerti, viaggio, manco per tutto affrontare il viaggio per vedere un concerto, non l'ho mai fatto, e me lo farò, penso. No, cioè se non l'ho fatto da giovane, tantomeno adesso. Oh, figurati, e poi per conto mio, guarda, se mi viene sotto casa via a cantare, io non lo ascolto, mi metto i tappi nelle orecchie per ascoltare quel drogato lì, per me quello lì è un drogato, fa schifo, con quella barba brutta, sempre porco, tutto alto e sgradiato, ma quando mai la cantante si deve presentare al pubblico così, oh, per carità. Sto dicendo, invece mi dovessero pagare per andare in teatro a vederlo quando lui fa le serate, io non ci andrò mai, mai mai, nemmeno se si mette sotto casa mia l'ascolto, a costo di uscirmene, di andarmene lontano, ma lui non lo ascolta, mi fa schifo quell'uomo. già si è dato una calmata per quelle sostanze, presumo. Però sai cos'è, Vasco, vabbè, c'è un gap generazionale anche, conta. E poi ai ragazzi piace così, cioè più lurido sei, più stracciato sei, con le pezze al sedere, più vanno in visibilio. Capito? E se fosse in giacca e cravatta, cioè in camicia e cravatta, chi se lo filerebbe Vasco Rossi? E così è qua, così è qua. Chi è che vuole entrare? Ah no, forse sono in locale, questi in FM sono lontani. Aiaia. Ti volevo chiedere Giulio, ma non è che c'è stato qualche lutto tra i CB, no? O meglio parenti, no? No, perché sul giornale ho visto un cognome, ho visto un nome. Ho pensato una persona, spero di no. Ah, ma non credo. Non credo, assolutamente. Penso proprio di no. Oh, vabbè, oggi non ho letto i giornali io, Per cui non sono nemmeno informato. C'è una cosa adesso, di adesso, questo non lo so proprio. Allora Vasco, per me Vasco è lurido, dentro e fuori, per carità, Cucci, che uomo vicino, eppure ragazzi come lo acclamano, come impazziscono per andare a vedere e a sentire il concerto che fa questo, concerto pure. Mini intanto che è stonato prima di tutto, per conto mio, perché è un cantante stonatissimo, non stonato, stonatissimo. Poi le canzoni che scrive o che canta, non so se scrive lui, sono anche canzoni che provocano il buon comportamento delle persone, di questi giovani deficienti che deboli, che poi ci cascano anche, tra l'altro, per carità. Per me non mi è mai piaciuto, mai mi piacerà cantare del genere. Poi, Fucci. Magari no, già c'è di peggio, e pensa, ricordati che quelli che distruggono il mondo e distruggeranno il mondo sono tutti in giacca e cravatta, quelli sono i veri pericolosi. Ma l'altro giorno ho visto che hanno fondato questa città, non so se in Israele, no, c'era il gemellaggio USA-Israele, presumo in Israele, hanno praticamente dedicato una città a Trump, il loro caro amico, buono lui e buoni gli altri. Trump, com'era, Highland Highway, boh, non so, le alture di Trump, praticamente tradottomi. Vabbè, accontenti loro. Ah beh, quello certo, adesso quello a noi non ci tocca. Facciamo come credono, perché intanto no, non ci tocca. Poi, vabbè, dai, vediamo un po', chissà che cosa cambia adesso col nuovo sindaco a Sassari. Io dico che non cambia niente, è sempre peggio, anzi di male in peggio, stiamo sempre andando qui a Sassari. Che porcheria, porca, dai, non è possibile. Ieri mi sembra che è morto il vigile urbano più bravo che c'era a Tempio, il più bravo in assoluto. Oggi c'era il funerale, poveraccio, 60 anni, una cosa del genere. Chi è morto a Tempio? Il vigile urbano più bravo che c'era, ben voluto da tutti, anche perché ha aiutato un sacco di gente. E oggi purtroppo è morto di infarto, ieri, dai, morto di ieri, oggi c'era il funerale, poveraccio, vabbè, sempre i migliori se ne vanno in anticipo. Caspita, adesso non voglio, ma se era ben voluto da tutti questo, o non faceva multe, com'è? Vabbè, adesso al di là del lavoro, sicuramente era una bravissima persona. Ho guardato così, sono andato al bar a pigliare un caffè, o per meglio dire, come si chiama quello, il ginseng, buono, quello dolcino, no? Ho dato un'occhiata veloce al giornale, così. Non so chi possa essere. Quindi, mamma mia, tanto sempre lì, tutti lì finiamo, ci pensi. Per quanto uno possa strepitare, strapparsi i capelli, sbattere i piedi a terra, è una tappa obbligata. Mamma mia, non mi ci far pensare. Purtroppo è così. Purtroppo arriva l'ora. Comunque cosa ci vuole fare? Insomma, pensa che è moglie dei bambini ancora. Ancora oggi la moglie dei bambini sale così e anche loro se ne vanno purtroppo. Che alle volte la vita è proprio crudele, ma crudele veramente. Non è possibile, capito? E quando ti va bene lo soffri, quando ti va bene, ma di solito uno è arrivato a una certa età e comincia a soffrire e poi morire. Dopo che hai sofferto lavorando una vita intera, arriva il colpo di grazia. Per dove tu pensi? Senti, 9 più 29, 9 più 15 ha toccato, Sicuramente può essere, io l'ho girato, sono qua, per cui non so, sono gli assistenti che sono gli assistenti. Non riesco a capire la lingua, sembra un misto di, non lo so. Vediamo se lo capisco io. Arriva fortissimo Marco. Ma cos'è il romeno, una lingua dell'est? Non lo capisco. Nemmeno io lo capisco. Per me è arabo. Sta parlando in arabo perché poi può essere qualsiasi posto, ma per me è sempre arabo. Ehi, poi sono liscio, non fa nemmeno chiamarlo. Tanto più che in inglese non lo posso chiamare. Giulio, qua è pronta la pappa, dai, togliamoci il dente, mamma mia, non è manco voglia, però se non poi mi tocca pranzare alle 10 di notte, pranzare, va bene, ok, dai Giulio, ci sentiamo quando capita, quando c'è qualcuno, dai, ciao, buona serata. Ok, ciao Marco, ciao, buon appetito, ciao. Giulio, c'è ancora? Chi è avanti? Chi è quel pischietto?